need to see. I need to see what makes me tick. Mama, hey, hey, hey, hey. Clickety click, I stick chick. Hey, hey, hey, hey. The hot heels on for the baby blues. Hey, hey, hey, hey. Man, oh man, what a sight. Hey, hey, hey, hey. Purple lipstick for the baby blues. Man, oh man, hey, hey, hey. It was a night. Everybody stop, we're on a dime to look. Hey, hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey, hey. She's my clickety click, I'll stick hey, hey, hey. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick, she. A neat trick, but see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, mama, mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. A stick chick. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick. Ritrovati e ben ritrovate, cari vombati, cari vombatesse. Non ve l'aspettavate, eh? Pensavate che all'otto e mezzo andasse avanti la bobina come da un mesetto a questa parte, e invece no, non ve l'aspettavate, ma sono tornata per Slick Chick, Bloody Mary qui con voi. Purtroppo aprile è stato un mesaccio pieno di cose belle e brutte, quindi insomma mi è toccato saltare diverse puntate. Vi ho lasciato con la puntata di Slick Chick dedicata alle cover, e questa puntata è andata avanti in realtà in replica all'infinito. Potrebbe sembrare quasi voluto, cover, quindi si ripetono. No, non è vero, dai, non era assolutamente voluto, era così la vita e le forze del male che complottavano contro di me. Ma adesso sono di nuovo qua tra voi a Slick Chick su Radio Wombat per una puntata dedicata al lavoro. Perché? Perché già abbiamo saltato la puntata del 1° maggio, perché eravamo proprio sul pezzo, cioè era proprio il 30, il giorno prima, insomma avrei potuto fare una puntatona sul 1° maggio e sul lavoro, non è andata così. E per farmi perdonare lo faccio adesso, e quindi parliamo del lavoro qui a Slick Chick, e per farlo ci siamo fatti introdurre da Lou Reed, Don't Talk Me About Work, dall'album Legendary Hearts del 1983, e Lou Reed, l'avete sentito, mette subito le cose in chiaro: passo in carcere la maggior parte della giornata. E così è che vede il lavoro Lou Reed. D'altra parte difficile vederla altrimenti, se non siete un po' picchiatelli, e quindi ci sono tantissimi musicisti, tantissima musica che è stata scritta sul lavoro. Vi svelo, non entusiasta. Generalmente i musicisti non sono dei fan del lavoro, per fortuna, perché sono delle persone sane. E quindi si accorgono che il lavoro non è certo qualcosa di cui andare fieri o qualcosa a cui aspirare, ma anzi è qualcosa che generalmente ti devasta la vita, te la rovina, te la fa sprecare completamente. Così infatti ci raccontano i Clash, secondo pezzo in scaletta. Vado a dritto oggi, cioè bam, velocissima, perché ho tantissima musica da farvi ascoltare. I Clash, dicevamo, Clash con Career Opportunities, dai, pezzone che è inutile proprio che ve lo presenti, dall'album The Clash del 77. E ci parlano in questo brano dello stigma sociale del disoccupato, cioè immaginate l'Inghilterra di quegli anni, e il disoccupato, che peraltro era in buona compagnia, ecco, non è che proprio fosse una mosca bianca, ce n'erano a milioni. Ecco, i disoccupati erano qualcosa, seppur tanti, erano visti come, ecco, gli scansafatiche, quelli che non vogliono fare niente, e trovati in lavoro, e vergognati di non avere un lavoro, deve averlo il lavoro, e vai a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, direi non soltanto nell'Inghilterra di quegli anni, ma purtroppo è qualcosa che perdura, ma ecco, al tempo ancora di più. E i Clash ci dicono che fondamentalmente ogni opportunità di lavoro che ti viene offerta serve in realtà a tenerti fuori dalle strade. Never not. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knock. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Jordan Gulf. I hate the 7-7 boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. E oltre ai Clash, dicevamo, in tanti parlano del lavoro, ne parlano tendenzialmente male o se ne lamentano, o comunque insomma ci danno delle angolazioni, delle visioni sul lavoro e sulla giornata lavorativa non proprio edificanti. In qualche modo così fanno anche i The Vogs, un gruppo, lo sentirete, è un gruppo piuttosto interessante, se non lo conoscete vi invito a ricercarvelo, perché è un po' un punto di incontro secondo me tra il soul, beh anche un po' il northern soul e il doo-wop, il surf anche per certi versi. E in un brano del 1965, 5 O'Clock World, pezzo piuttosto famoso, ci dicono appunto: il mondo ricomincia alle 5, 5 era l'orario tipico in cui si usciva dal lavoro, è il momento in cui si ricomincia a vivere, quindi ecco, beh, si stacca dal lavoro e la vita inizia a quel punto. Si dice lavorare per guadagnarsi da vivere, no? Giusto, in effetti, ma spesso in realtà la porzione di vita rimasta è piuttosto piccola rispetto a quella che è passato a lavorare. E quindi se ne sono accorti anche loro, The Vogs. Every morning just to keep a job, I gotta find my way through the hustle and mob. Sounds of the city pounding in my brain while another day goes down the drain. Yeah, yeah. But it's a 5 o'clock world when the whistle blows. No one owns a piece of my time. And there's a 5 o'clock of me inside my clothes, thinking that the world looks fine. Bello sto pezzo, pure con un po' di yodel buttato lì. E erano di diverso avviso, era di diverso avviso probabilmente la madre dei Miracles, no scusatemi, la madre dei Silhouettes, ecco, poi vi spiego perché il lapsus, la madre dei The Silhouettes, gruppetto, anche questo siamo un po' prima dei Vogs, siamo fine anni 50, doveva averli ossessionati un bel po' dicendogli trovati un lavoro, ma trovati un lavoro. E quindi i Silhouettes ci hanno fatto nel 1958 un pezzo diventato strafamoso, Get a Job, giusto per appunto proprio essere didascalici, con questo ossessivo tormentone che evidentemente un po' li ossessionava. E sempre nello stesso anno, nel 58, i The Miracles, ci arriviamo quindi, ecco, gli rispondono, fanno uno di quei brani in risposta che spesso nella storia della musica si sono visti registrare, brani strafamosi, e poi magari lo stesso anno, poco dopo, qualcun altro che ti risponde registrando un altro brano. Così fanno i Miracles e registrano Got a Job, quindi ok, mi sono trovato un lavoro. Peraltro è il primo singolo dei Miracles questo, e dice: va bene, sono stato veramente fortunato, sono proprio fortunato, oh come sono fortunato, ho trovato un lavoro. Peccato, peccato che mi fa schifo. È andata così. E quindi ci ascoltiamo a bomba tutti e due i brani, prima Get a Job e poi il risultato Got a Job. Dip dip dip dip dip dip dip. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, but sha-la-la-la, sha-la-la-la, but sha-la-la-la, sha-la-la-la, but sha-la-la-la, sha-la-la-la, but dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip me. I then go back to the house, hear that woman's mouth reaching and crying, tell me that I'm lying about a job that I never could find. Sha-la-la. Get the mop and clean the dirty floors, Never, never quit my brand new job. Working all day and working all night. And working all day and working all night. E scegliete voi qual è la versione che preferite, non so, io non avrei veramente dubbi, la seconda, ma fate voi, io non vi voglio assolutamente influenzare. E puntata questa dedicata al lavoro che voglio dedicare al nostro amato Soul Boy, il nostro amatissimo e rimpianto da questi microfoni, Soul Boy che ha tutte le sfighe fisiche possibili e immaginabili di salute e gli tocca invece lo stesso andare al lavoro, e quindi spero che almeno appena torna dalla sua concitata e lunga e faticosa giornata di lavoro stia qui ad ascoltarci da questi microfoni su Radio Wombat. E ne approfitto anche per darvi i social Wombat, il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando. Se siete tutti belli digitali, potete ovviamente usare questo link per ascoltare il nostro streaming, ma anche per ascoltare i podcast, quindi quello che vi siete persi nella diretta, per guardare per osservare i cambiamenti e le novità dentro il palinsesto di Radio Wombat, e vedere quando sono le vostre trasmissioni preferite o quelle che ancora non conoscete, che dovete scoprire, e quant'altro, insomma. Poi oltre al sito vi do anche il contatto della mail, posta wombat@insiberia.net, alla quale scriverci per dirci tutto quello che vi viene in mente, e contenetevi un po', e la nostra frequenza sulle onde mediocri 1359 AM, se siete fortunati e fortunate da ricevere il nostro bellissimo e meraviglioso Wombat segnale. Ecco, rimaniamo sempre più o meno in quest'ambito, in questi anni, perché poco dopo, nel 59, arriva una hit di Chuck Berry che butta un po' tutto all'aria. In realtà non butta all'aria moltissimo, era tutto un po' un concatenarsi di cose e insomma il clima era quello lì. Però Chuck Berry ci si infila, direi, a capofitto con questa Let It Rock, che sicuramente avrete benissimo in mente, ma magari non sapevate che in qualche modo parla di lavoro, perché è cantata dal punto di vista di un ferroviere in Alabama, che insomma è lì che cerca di arrivare in fondo alla giornata lavorativa per portare a casa 2 lire, e alla fine della giornata tutti i lavoratori sono sui binari a giocare a dadi, quando il caposquadra li avverte che sta arrivando un treno. E ovviamente il treno, se siete un po' svegli, magari ve ne siete accorti, questo treno è il rock and roll. Let it roll on. questi giorni, in questi proprio ultimi giorni, la polveriera, spazio occupato, autogestito, a cui tutti e tutte siamo moltissimo affezionati qui a Firenze, sta passando un momento piuttosto brutto e piuttosto teso. C'è un presidio permanente che sta andando avanti da qualche giorno ormai in difesa del chiostro di Sant'Apollonia per cacciare gli spacciatori che stanno cercando. Beh, direi da un bel po', insomma, bullizzano e cercano di impadronirsi di questi spazi, e quindi la polveriera si sta facendo un presidio permanente per riprendersi lo spazio e tenerlo libero da questa presenza oggettivamente intollerabile. E vi invito a passare, ma più che altro a passare giovedì alle 18 alla polveriera, negli spazi della polveriera autogestita, per un'assemblea pubblica dove ci possiamo confrontare e aggiornare sulla situazione, che è sempre in evoluzione, ma insomma adesso più che mai c'è bisogno delle vostre zampe e della vostra testa. Quindi vi invito tutti a dare solidarietà attiva agli spazi liberati, autogestiti, e a chi insomma cerca di portarli avanti con fatica e pericolo anche dentro questa Firenze vetrina. Dopo questa doverosa piccola parentesi, dobbiamo andare avanti con la nostra scaletta. Ci mancano ancora un po' di pezzetti che parlano di lavoro, come vi dicevo, e il prossimo è affidato ai Cockney Rejects. Beh, chiaro che non potevamo non dare voce anche a loro. Siamo un po' più in là, direi 1980, Someone Like You, che detta così sembra proprio la classica canzone d'amore. Probabilmente esistono anche altre 700 canzoni pop con questo titolo, che parlo del fidanzatino o della fidanzatina. Ecco, i Cockney Rejects sbaragliano tutto, perché ovviamente non parlano di questo, ma parlano in senso pure negativo di qualcosa come te, qualcuno come te che viene confinato in una giornata che va dalle 9 alle 17. Se ti piace, sono un po' fatti tuoi, a me invece mi fa schifo. Someone like you. arriviamo a un brano che probabilmente è uno dei brani più conosciuti quando si parla di lavoro, insomma è uno dei primi che viene in mente, almeno quando si parla del lavoro in miniera. Devo dire che mi si apriva un mondo, ecco, se parlando delle miniere avrei potuto parlare di Marcinelle, avrei potuto far sentire veramente milioni di canzoni, non me ne vogliate, ce n'erano veramente tantissime, e però la mia puntata dura poco più di un'ora e quindi non potevo metterle, almeno non tutte, e quindi mi sono affidata a un classico di Lee Dorsey del 1966, Working in a Coal Mine. L'autore di questo brano è in realtà Alan Toussaint, jazzista, prolifico e abbastanza anche famoso, collaboratore di Fat Domino, Benny Spellman e altri, insomma. E Toussaint ha scritto moltissimi brani per Lee Dorsey, tra cui un anno prima, Work, Work, Work, si intitolava così, una probabile frecciata a Lee Dorsey che pare amasse molto di più lavorare tutto il giorno come meccanico piuttosto che fare musica. Ma invece Working in the Coal Mine, appunto del 66, è un pezzo che è diventato un'icona e descrivere, beh, direi soprattutto con la musica più che con le parole, lo sentirete, l'incessante fatica e alienazione del lavoro in miniera. È uno dei primi che iniziano a descrivere i suoni, insomma, a parlare di lavoro attraverso un'onomatopea, ecco, strumentale. Beh, del resto anche prima, se lo sentivate, anche Chuck Berry si avvaleva di una chitarra che faceva un po' il verso a un treno. Qui c'è invece un Lee Dorsey che picchiettando sull'asta di un microfono, pare che sia questo, che sia andata così, fa fondamentalmente, rende l'idea della fatica del piccone dentro la miniera. I Divo ne hanno fatto una famosa cover nel 1981, che è quella che poi ci andiamo ad ascoltare, e che è entrata a far parte anche delle musiche del film Heavy Metal. Del resto milioni di cover sono state fatte di questo brano veramente, veramente celebre, ma noi appunto ci andiamo a sentire Divo, ho scelto questi e quindi vi beccate questi. Going, working, about to slip down. Che brutto sentirsi dire c'ho lavorare, c'ho da lavorare, c'ho lavoro da fare, c'ho cose di lavoro. The Isley Brothers, Work to Do, dall'album Brother, Brother, Brother del 72. Sono un po' di lamentazioni su quanto il lavoro ruba spazio alla vita e alle persone amate. Gli Isley Brothers, nella loro formazione più estesa, era costituito da sei fratelli Isley, sì, così, più il loro cognato Chris Jasper, una famiglia, insomma. Ma Slick Chick, appunto, oggi parla di lavoro, ne parla entrando proprio dentro i luoghi di lavoro, dentro le fabbriche, dentro ormai più che fabbriche, potremmo parlare di boh, tantissimi altri luoghi e non luoghi che sono ormai i posti dove si celebra il lavoro, le strade solcate dai riders, o moltissimi altri posti dove c'è il meraviglioso caporalato, non mi riesce neanche a dirlo per quanto mi fa schifo. E insomma, sono cambiati i tempi, però lo sfruttamento direi che non è cambiato assolutamente e anzi ha assunto nuove forme che però fanno completamente l'eco preciso, spiccicato a quello vecchio. E quindi, giusto per tenerci allenati, ci ascoltiamo, torniamo un po' indietro, arriviamo al 1966, alla registrazione del 66, di questo brano raccolto, pare, a Montefiascone a Viterbo. Nel 1966, appunto, è inciso per i Dischi del Sole, i gloriosi, meravigliosi Dischi del Sole che non smetterò mai di incensare, ecco. E qui Caterina Bueno, dalla voce bellissima, strepitosa di Caterina Bueno, ci ascoltiamo questo brano che si intitola Sono stato a lavorare a Montesicuro. Almeno il titolo penso che sia stato dato un po' così, giusto dai primi, i prim le prime parole di questo brano, che è un brano anonimo, non si sa bene chi l'ha scritto, chi l'ha composto, come spesso accade nella musica popolare italiana. Questo brano fa parte di una raccolta che si intitola Ci ragiono e canto, che è in realtà uno spettacolo di canti popolari diretto da Dario Fo e messo poi in scena dal collettivo teatrale Nuova Scena, un po' prima del 66 e poi dopo, in una seconda edizione nel 69. Poi in realtà nei primi anni 70 questo collettivo viene, insomma, si litigano un po', Dario Fo e Franca Rame se ne escono e lo spettacolo vede una terza edizione con la sostituzione al suo interno degli artisti rimasti e insomma questa terza edizione sarà poi quella che potete anche trovare registrata per Rai 3 e magari in qualche archivio lo scovate. Questo lavoro, questa registrazione e questo spettacolo nasce in seno all'Istituto Ernesto De Martino, che insomma sta qua a pochi metri da noi perché sta vicinissimo a Firenze, sta a Sesto Fiorentino, e grazie alle ricerche di Cesare Bermani e Franco Coggiola. E fu rappresentato per la prima volta, come dicevamo, nel 66 al Teatro Carignano di Torino e fondamentalmente si diceva, era una raccolta di canti popolari legati al lavoro in primis e tutti i partecipanti erano intesi come portatori di culture, un po' una sperimentazione, un qualcosa di collettivo, questo spettacolo da cui poi, insomma, è stata tratta questa registrazione che è interrotta un po' bruscamente, ve lo dico già, ma d'altra parte si tratta di un materiale raccolto così, quindi sarete magnanimi, spero. Quando qua guadagnato Beh, che poi se andiamo a indagare nella famiglia di ognuno di noi, ognuna di noi, immagino, un po' tutti o quasi abbiamo antenati più o meno lontani morti sul lavoro, magari nelle miniere, magari a costruire la ferrovia, nella terra del lavoro, magari come è capitato a un mio vecchissimo antenato, o insomma, o magari emigrati. Se andiamo a indagare, sicuramente tutto ciò torna a galla e questo bellissimo brano, secondo me, ci suonerà molto familiare. Arriviamo adesso a un qualcosa di un po' diverso, anche se gli anni sono, ci spostiamo di poco, ecco, perché siamo all'inizio degli anni 70 e rimaniamo in Italia. Ci rimaniamo per tutta la fine della scaletta. I prossimi due brani vengono da un mondo nascosto che di recente sta avvenendo un po' a galla. È il mondo delle library music italiane degli anni 70. Cosa sono? Si tratta di materiale composto da illustri sconosciuti, chiamiamoli così, materiale di servizio, cioè sono delle sonorizzazioni che potevano poi forse venire utilizzate in film, documentari, servizi radiofonici, ce n'è tantissime che questi vari compositori scrivevano e registravano e poi se qualcuno voleva se ne serviva. Gli illustri sconosciuti erano in realtà dei maledetti genietti di quelli che lavoravano negli scantinati e non lo so, forse il non dover comporre musica alta e finita anche in qualche modo gli permetteva di liberare l'estro, la fantasia e anche un bel po' di sperimentazione, a volte anche estrema. Hanno in realtà pescato un po' tutti da questi cassetti, che poi sono cassetti popolati da compositori che si firmavano spesso con pseudonimi per gabbare la SIAE e la RAI, c'era proprio un mondo sotto, e che adesso stanno venendo riscoperti con grande meraviglia, giustamente. Ci sono delle etichette che stanno ristampando pazientemente tutto, tenetele d'occhio, ve lo suggerisco, perché sono delle perle, veramente. Il primo di questi due brani è tratto da un album di queste ristampe, che è un album intitolato Nel mondo del lavoro, ed è un album del 1972 di Rino De Filippi, e la traccia che ci ascoltiamo, lo sentirete, sono un po' tutte, anche quelle che non vi faccio ascoltare, però contenute in questo album, sono il suo modo di intendere vari aspetti del lavoro, ingranaggi, ciminiere, hanno tutti questi titoli e sono molto didascaliche. Poi le musiche, lo sentirete in qualche maniera, ma in qualche maniera anche per niente. Questo è Lavoro ripetitivo. Thank you. Beh, sì, questa invece è la seconda che vi faccio ascoltare, tratta da un po' da questo mondo, che invece è di Silvano Chimenti. Si intitola Fischiando e Lavorando, e tratto da un album dove ci sono vari autori e che è intitolato Sonorità nel lavoro. Anche questo, appunto, è tratto da una di quelle etichette di qui sopra di cui vi parlavo. Vi do il link se vi interessa, Sonar Music Editions. Bandcamp.com è proprio un'etichetta che raccoglie questo tipo di lavori e non è che proprio tutto ciò è molto facile, è molto immediato, quindi vi invito a darci un'occhiata perché insomma è molto interessante, secondo me vi si aprono dei mondi. Quindi ascoltiamoci anche il penultimo pezzo in scaletta per oggi, per Slick Chick, Fischiando e Lavorando. Siamo arrivati alla fine di questa scaletta di oggi di Slick Chick dedicata al lavoro e beh, un po' meno ai lavoratori e alle lavoratrici, più al lavoro. E beh, vi lascio con un brano che secondo me vi piacerà moltissimo e che riassume in qualche maniera un po' tutto il mood di questa puntata, direi. Beh. Sì, lo lascio fare a come dire, un esperto, Lino Toffolo. Sì, ho scelto lui per chiudere questa puntata con questa meravigliosa lavorare bello. E con questo vi do vi saluto, come si dice, no? Buonanotte perché ancora è presto. Andate a mangiare, beh, avrete già mangiato voi beati voi, ma insomma, fate quel che vi pare e noi si riascolta da questi microfoni. Sempre su Radio Wombat, il martedì, sempre intorno alle 8. Ciao ciao! Devi lavorare, ma perché, perché? Devi faticare, ma perché, perché? Devi guadagnare, ma perché, perché? Se io sto qui tranquillo, che cosa importa a te? Devi avere il frigo, ma perché, perché? La televisione, ma perché, perché? La lucidatrice, ma perché, perché? Io devo lavorare e dare i soldi a te. Non voglio avere casa, non voglio avere niente. Dormire si può sempre, mangiare basta un po'. Lo so che tu convinci, convinci tanta gente. Ti credono però, a questi qui io dico che... Programmarti, scusa dici a me, scavalcare gli altri, ma perché, perché? Essere importante, ma perché, perché? Se quando arriva notte io sto meglio di te. Devi far carriera, ma perché, perché? Essere ambizioso, ma perché, perché? Essere qualcuno, ma perché, perché? Io resto quel che sono e tu pensa per te. A me basta soltanto di essere normale e sempre quando posso distinguermi da te. Lo so c'è tanta gente che ancora non sa niente, ti credono però a questi qui io dico che...